I love you. I love you. I love you. DJ! game to play. Her eyes, they show no fear. I burn inside and cannot wait to be the man that feels your body close. Is here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. You shiver as I touch your neck. Slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. We both surrender to the touch as we lay there side by side. And everything around us disappears. If you believe in love tonight, I'm gonna show. Lips come close to mine. The tension becomes more than I can bear. Then you wrap your arms around me and I feel your every move. This feeling could now lead us anywhere. Now we leave the world behind us. This moment we both share. It's you and me, that's how it's meant to be. We'll be right back. per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ho ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Alice le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. E mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di stare. Piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe. Per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta. Da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Intero sono un pazzo, lascia che ti racconti. Avevo una giacca sgualcita e portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in bilico tra l'essere vittima, essere giudice. Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti, lucide. Il dubbio, no? Se fossero morti oppure rinascite. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa.